E come la mia faccia si distese, posarsi quelle prime creature da loro aspersion l'occhio comprese. E le mie luci, ancor poco sicure, vider Beatrice volta in sulla fiera, che è sola una persona in due nature. Sotto il suo velo e oltre la rivera, vincer pariemi più sé stessa antica, vincer che l'altre qui, quand'ella c'era. Di pentersi mi punse ivi l'ortica, che di tutte altre cose, qual mi torse più nel suo amor, più mi si fe nemica. Tanta riconoscenza al cor mi morse, ch'io caddi vinto, e quale allora femmi, salsi colei che la cagion mi porse. Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi, la donna che avea trovata sola sopra me vidi e dicea: «Tiemmi, tiemmi!» Tratto m'avea nel fiume infin la gola e tirandosi me dietro sengiva sovresso l'acqua lieve come scola. Quando fui presso alla beata riva, «Asperges me!» sì dolcemente udissi che non so rimembrar non ch'io lo scriva. La bella donna nelle braccia prissi, abbracciommi la testa e mi sommerse ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi. Indi mi tolse e bagnato m'offerse dentro la danza delle quattro belle e ciascuna del braccio mi coperse. Noi siam qui ninfe e nel ciel siamo stelle. Pria che Beatrice discendesse al mondo, fummo ordinate a lei per sue ancelle. Merrenti agli occhi suoi, ma nel giocondo lume che dentro aguzzeranno i tuoi le tre di là, che miran più profondo. Così, cantando cominciaro, e poi al petto del grifon seco menarmi, ove Beatrice stava volta a noi. Disser: «Fa che le viste non risparmi, posso t'avem dinanzi agli smeraldi, onde amor già ti trasse le sue armi. Mille disiri, più che fiamma caldi, strinsermi gli occhi, agli occhi rilucenti, che pur sopra il grifon stavan saldi. Come in lo specchio il sol, non altrimenti la doppia fiera dentro vi raggiava, or con altri reggimenti. Pensa, lettor, s'io mi maravigliava quando vedea la cosa in sé star queta e me l'idolo suo si trasmutava. Mentre che piena di stupore e lieta l'anima mia gustava di quel cibo che, saziando di sé asseta, se dimostrando il più alto tribo negli atti, l'altre tre si fero avanti, danzando al loro angelico caribo. Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi, era la sua canzone, al tuo fedele che per vederti ha mosso i passi tanti. Per grazia, fa noi grazia che disveli a lui la bocca tua, sì che discerna la seconda bellezza che tu cele. O splendor di viva luce eterna, chi paio si fece sotto l'ombra sì di Parnaso o beve in sua cisterna, che non paresse aver la mente ingombra, tentando a render te qual tu paresti là, dove armonizzando il ciel t'adombra. Quando, nell'aere aperto, ti solvesti?» Fine del 31° canto del Purgatorio.